Crollato intorno alle mie mani i sogni finiti, l'amore se n'è andato. Lei non mi ha creduto, ridendo mi ha lasciato e tutto è crollato, un mondo è finito. Anche tutti gli ideali sono caduti nella strada, la mia anima è schita, il mio corpo sopra l'erba. Sono fermo nella strada, sono solo senza pace, non riesco neanche a piangere, vorrei solo sparire. Per vestito una pioggia di ricordi, finalmente posso piangere solo al caldo.